Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. We'll be right back. Radiazione a lunedì a 2 febbraio 2015 a diretta d'azione, come ogni lunedì, che prevede a controinformazione, ma soprattutto la lettura. Ricordiamo che stiamo leggendo Sergio Piasecki con il romanzo Nessuno ci salva, siamo arrivati già oltre la metà e quindi si spera che per un altro mesetto riusciremo a finire prima della quest'anno fine della stagione. Faremo monotematica. Siamo partiti subito con un libro molto lungo e forse dopo continueremo sempre con Piasecki perché ci non piace. Si sa. Vediamo cosa uscirà, a meno che se no qualcuno non ci dia un consiglio, non arrivi un consiglio su tramite mail, che ora la ricordiamo, radiazione@16.org, dove potete per l'appunto mandarci qualche consiglio sulle letture da leggere il lunedì su Radiazione. Lo ricordo, non testi anarchici ma letture di narrativa, romanzi affine, che comunque trattano delle tematiche affini. La mail di Radiazione, dove potete anche mandare, soprattutto mandare notizie di varie cose che riguardano il movimento anarchico in generale in tutto il mondo, comunicati, scritti, lettere di compagni detenuti, in modo da dare una mano anche a Radiazione ad aggiornare quotidianamente il sito di controinformazione, sito che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione nella pagina dei podcast, dove trovate tutti i podcast degli ultimi 2 anni, 3 anni, e dove potete anche scaricarvi un bel po' di materiale attraverso la pagina download. Ci trovate libri, opuscoli, manifesti, cd, adesivi, un po' tutto quello che mettono a disposizione i compagni internazionali, quindi non solo italiani. È materiale che una volta scaricato e se lo mettete in diffusione, vi ricordo sempre di fare un pensierino alle casse anarchiche, casse che raccolgono soldi da poter mandare ai compagni detenuti. Allora, la radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre, ovviamente compagno che ha avuto anche lui la visita, perché ospita Radiazione sul proprio server, la visita famosa dei SOA, servizi segreti croati, insieme alla compagna di Radiazione Croazia, che per l'appunto potete arrivarci e leggerlo dal banner che trovate su Radiazione italiano. C'è il banner, cliccate e aprite Radiazione Croazia se conoscete croato, altrimenti ve le leggete in italiano su Radiazione in italiano. Questa era per quanto riguarda gli indirizzi utili di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano di Run Liver Zero, il brano è Deny Me, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. due settimane dopo l'occupazione della città da parte dei bolscevichi, iniziò i suoi lavori la sottocommissione del Tribunale Rivoluzionario, incaricata di esaminare gli incartamenti dei detenuti del penitenziario di Minsk. Molti prigionieri arrestati da poco per fatti rilevanti vennero subito rilasciati dopo una sommaria inchiesta, altri, invece, dovettero subire un interrogatorio, in seguito al quale vennero liberati o rinchiusi di nuovo nelle rispettive celle. Furono invece trattenuti prigionieri sui quali pesavano gravi imputazioni e i recidivi, anche se solo di lievi reati. Un giorno anche Jan venne chiamato in direzione dove si trovavano già una quindicina di detenuti. Sotto forte scorta vennero accompagnati al Tribunale Rivoluzionario in piazza della Cattedrale e radunati in una grande sala vuota. Ognuno venne interrogato separatamente. Jan fu il penultimo a essere chiamato. Venne introdotto in una stanza dove si trovavano seduti ad un tavolo tre uomini e una giovane donna piuttosto brutta. «Jan Nazevich», chiese il presidente. «Sì, sono io». La commissione procedette all'esame degli atti dell'istruttoria e poi chiese a Nazevich se si riconoscesse colpevole dell'imputazione che gli era stata mossa. Jan finse di essere un ragazzo ingenuo che il caso aveva fatto cadere nelle mani della polizia senza che neppure egli ne sapesse il perché. Lo avevano accusato di aver rubato la macchina per fabbricare sigarette e la sua situazione era stata aggravata in seguito dal fatto che era fuggito dal carcere preventivo, credendosi in pieno diritto di farlo data la sua assoluta innocenza. A suo favore parlava la circostanza che egli non aveva mai avuto a che fare con la questura prima di quello sfortunato incidente e che egli insisteva a definire un equivoco. «Del resto», chiese poi con tutto il candore di cui era capace, «come avrei potuto rubare una macchina come quella? Ci sarebbe voluto un carro e alcuni uomini per trasportarla». «Beh, potevate avere dei soci che naturalmente si sono ben guardati dal costituirsi», ribatté il presidente. «Ma che me ne facevo di quella macchina?» obiettò Jan con l'aria più ingenua di questo mondo. «E anche ammettendo che l'avessi rubata, non sarei stato così sciocco da andare io stesso a restituirla». «Eh già, ma può avervi allettato la cospicua mancia offerta dal proprietario. Inoltre, se non eravate colpevole, perché siete fuggite?» «Perché ero triste e avevo fame», rispose Jan, deciso a recitare sino in fondo la commediola dell'ingenuo, anche a costo di sembrare puerile. «Ero innocente! Perché dovevo soffrire così?» «L'autorità inquirente ha dato un parere molto sfavorevole sul vostro conto. Per di più siete stato arrestato in un covo di ladri in compagnia di noti scassinatori». «Ma mi ci trovavo per puro caso, cercavo un alloggio». «E come, non ne avete uno?» «Beh, volevo una stanza sola. La casa che ho è troppo costosa per me e anche troppo grande». «Beh, mi sembra che lei stia menando il can per l'aia», intervenne a questo punto uno dei membri della commissione rivoluzionaria. Intanto il presidente esaminava il contenuto del sacchetto dove erano stati raccolti gli oggetti sequestrati a Jan al momento dell'arresto: un orologio, un portasigarette d'argento e un po' di denaro. A Jan balenò un'idea che doveva servire a mettere in evidenza la sua buona fede e la sua onestà. Indicando il portasigarette, disse: «Non capisco come mai quell'oggetto si trovi nel mio deposito». «Che cosa non capite?» «Sì, non capisco. Non avevo mica un portasigarette io. Del resto, non fumo. E in ogni caso, non avrei mai potuto comprarmene uno così bello». «Ma si trova nell'elenco delle cose che vi sono state tolte», disse la donna. «Beh, devono aver fatto sicuramente qualche pasticcio. D'altra parte, non voglio appropriarmi di roba che non è mia. Se insistono che mi appartiene, posso anche accettarlo. È molto bello, ma devo confessare di non averlo mai veduto prima in vita mia». «Non è vostro, dunque?» «No». Il presidente riflette un istante, poi disse alla scorta: «Conducetelo via e portatene un altro». Appena Jan fu uscito dall'aula, si rivolse al suo sostituto: «Bisogna liberare Nazevich. È chiaro che è stato accucciuffato per sbaglio. Semplicione com'è, si sarà messo da solo nei pasticci. Guardate per esempio la storia del portasigarette. Gli piace, sarebbe felice di possederlo, eppure afferma che non è suo». «È chiaro», ammise il sostituto. «Scrivete l'ordine di scarcerazione per Nazevich», disse il presidente della donna. Di sera ai tardi i prigionieri vennero ricondotti al penitenziario e di nuovo, dopo una minuta perquisizione, nelle rispettive celle. Jan ignorava il risultato dell'interrogatorio, ma raccontò tutto ai compagni, fermandosi su ogni particolare. E quasi tutti conclusero che sarebbe stato liberato prestissimo e si misero a scrivere dei biglietti che Jan avrebbe potuto recapitare una volta fuori dal carcere. Il giorno dopo ricevette delle missive anche da altre celle. I dritti preferivano sempre mandare notizie ai familiari e agli amici per mezzo di un altro dritto che lasciava la prigione, piuttosto che ricorrere a un merlo che poteva sempre tradirli, coinvolgendo anche i destinatari. Baran, dalla cella numero 7, gli mandò un biglietto per il suo ricettatore in cui lo pregava di consegnare a Jan la percentuale che gli spettava per l'ultima fornitura di merce. E un altro biglietto diretto allo stesso Jan, nel quale raccomandava al giovane amico di provvedere a Pavka se mai questa ne avesse avuto bisogno. Oleg non aveva più ricevuto notizie da lei. Si poteva dire che fosse l'unico dritto la cui amante non si era mai fatta viva in nessun modo. E ciò lo amareggiava molto. Ai compagni di cella non poteva portare alcun contributo alle provviste e al denaro che gli altri mettevano in comune. Ed era anche umiliante, poiché tutti sapevano che fuori dalle mura del carcere aveva lasciato la sua amorosa, ma ciò nonostante non mandò a chiedere nulla a Pavka, anzi pregò Jan di aiutarla. Leggendo il biglietto, Jan non poté fare a meno di lanciare qualche improperio all'indirizzo di quella donna. Sapeva che Pavka aveva un negozio e che Oleg le aveva lasciato una quantità di cose di valore. Era veramente indignato di come si stava comportando Pavka verso l'amico. I dritti nascosero abilmente le missive nella giacca di Jan e egli ricevette persino una lettera di Ignazio Kulikovsky, scritta alcuni giorni prima di suicidarsi e indirizzata a sua sorella Mila. Subito dopo il rancio, Jan venne chiamato in direzione, dove gli fu comunicato l'ordine di scarcerazione. C'erano tre altri detenuti, gli unici assieme a lui che venivano rimessi in libertà del gruppo che il giorno precedente era stato sottoposto all'interrogatorio da parte della sottocommissione del Tribunale del Popolo. Sotto scorta di un solo agente vennero condotti all'ufficio investigazioni, dove furono compilate le schede, fatte le fotografie e prese le impronte digitali, dopodiché vennero messi in libertà. A Jan fu restituito il suo deposito meno il portasigarette, di cui nessuno fece parola. Thank you. what to do. Go out of this house, leave your fears behind, and wonder what you will find. You will find a life back. You don't believe me. You don't believe me. Nothing left to lament. Questi erano Elsa Raffna con il brano You Don't Believe Me, dopo la prima lettura per oggi di Nessuno Ci Salva di Sergio Spiaseschi. E ora, come di consueto, passiamo alla controinformazione. Si parte subito con un testo proveniente dalla Grecia, è un testo di autopresentazione del gruppo Sinfonia del Caos. Testo che inizia con preludio di insurrezione anarchica. Il gruppo anarchico Sinfonia del Caos è un punto di incontro di azione per i compagni dell'Ampia. È una struttura anarchica informale che mira a fare un intervento stabile e multiforme nello spazio pubblico, diffondendo la prospettiva insurrezionale sulle questioni che ci riguardano e per sostenere i compagni le cui parole stre. Chiarendo la nostra posizione di solidarietà, noi consideriamo sbagliato di porla in termini politici, quindi strategici e simbolici. Per noi ha senso solo quando fa parte dell'analisi e della pratica di lotta anarchica, come viene espressa dai soggetti e dalle relazioni organiche o dialettiche che questi sviluppano. Perciò la solidarietà con i compagni perseguitati a livello internazionale, detenuti, fuggitivi, sotto processo, può aver luogo solo nel contesto dell'affinità teorica e pratica e non sotto etichette generalizzate come anarchici o rivoluzionari, che di per sé vuol dire ben poco o niente. Nello stesso tempo è ovvio che in ogni caso il sostegno non è un riflesso automatico che si attiva quando necessario, né è attivato il pilota automatico indipendentemente dai movimenti e dell'attitudine del ricevitore. È un processo dinamico che esamina ogni caso e situazione individualmente. Inoltre riteniamo che è importante sviluppare delle relazioni concrete con quegli anarchici che guardano alla lotta anarchica attraverso lo stesso prisma, come con il desiderio di incontrarli sui sentieri della ribellione, quando le nostre scelte coincidono o interagiscono dialetticamente. Noi pensiamo che in realtà, dove il complesso di dominazione è in aumento e in continuo cambiamento, dove le masse, nonostante il loro impoverimento spirituale e materiale, sono ancora addormentate e disposte a obbedire nell'attesa di potenziali salvatori, e dove una gran parte dell'ambiente anarchico corre verso la collettivizzazione, le alternative politiche o verso il sostegno dei governi di sinistra e socialdemocratici, esiste il bisogno che emerga una teoria e pratica anarchica nel suo insieme. Noi promuoviamo la lotta anarchica anti-Stato, lo Stato come basilare superstruttura istituzionale dell'autorità è dirigente e supervisore dell'ordine della fabbrica sociale ed è in diretto rapporto dialettico con essa. Esso rassicura la regolare circolazione di merci e buon funzionamento del mercato e organizza tutte le strutture sociali responsabili per l'assimilazione degli individui e protegge la normalità reprimendo fisicamente da essa. L'antistatalismo anarchico è intrinsecamente antipolitico. Per noi le politiche sono identiche alla gestione di miseria della struttura sociale e sono intrinsecamente legate al regime democratico e alla più ampia costruzione che è la civiltà. Contro il cittadino che rispetta le leggi o cittadino attivo della normalità democratica sta la ribelle individualità anarchica apolitica. Inoltre, considerando che lo Stato è semplicemente la moderna espressione del potere centralizzato, istituzionalizzato, noi stiamo dalla parte opposta di ogni rispettiva struttura del potere sociale, sia essa un comune, una confederazione, un'assemblea nazionale, eccetera. Noi ci stiamo muovendo aggressivamente contro il capitale, riconoscendo che il capitalismo, nella forma odierna, è un moderno e globalizzato sistema di classe del potere economico e struttura della fabbrica sociale. Noi promuoviamo l'attacco critico e pratico contro di esso. Il nostro attacco non è dalla parte del proletariato oppresso, proviene da coscienze anarchiche insorte. Il capitalismo è responsabile per la totale commercializzazione dei nostri rapporti e corpi, per lo sfruttamento sistematico e il dissolvimento del mondo naturale e per la creazione di un ambiente soffocante e autoritario oggi espresso nella forma di un crescente selvaggio neoliberismo. Noi miriamo a dissolvere le strutture e le relazioni capitaliste, disintegrare il sacro mercato, denudare la società dello spettacolo e degradare l'ideologica politica, economica e sociale del capitalismo. Nello stesso tempo crediamo che lo sfruttamento e la schiavitù degli individui non è iniziata e probabilmente non cesserà assieme al capitalismo, che è stato fondato su strutture e di ideologie esistenti. Perciò ci opponiamo ad ogni sistema organizzato di lavoro ed economia all'interno della macchina sociale, sia esso capitalista, comunista o qualcos'altro. Dichiariamo guerra alla civilizzazione e alla società. La civilizzazione è un elemento essenziale della sovrastruttura ideologica e presupposto necessario per la sostanza materiale della civiltà. Utilizzando la consunta ideologia del progresso, esso demolisce tutto, trasforma la natura e gli animali in oggetti, mentre la mostruosità del complesso tecnologico-scientifico meccanicizza, registra, studia, normalizza, scompone e ricompone la vita in sé secondo il proprio volere, mentre si assicura di creare l'alibi appropriata per la sua necessità di esistere. La pianificazione urbana, che è il centro della struttura residenziale, produttiva ed amministrativa della società, all'interno e o all'esterno delle metropoli, fornisce il campo in cui si sviluppano le operazioni e le politiche centrali della fabbrica sociale e dove la maggior parte della forza lavoro, la massa, abita. La struttura della civilizzazione non può essere vista indipendentemente dalla struttura sociale autoritaria. L'edificio sociale è il centro dell'esistente, una vasta rete di mediate relazioni, ruoli, identità, genere, classe, etnia, razza, eccetera, valori, ideologie, umanitarismo, moralità, legge, sicurezza, religione, patriarcato, carnismo, status sociale e consumo, fanatismo di ogni genere e specie, eccetera, e istituzioni formali e informali, famiglia, educazione, proprietà, carceri, chiese, esercito, polizia, eccetera, che formano e tengono insieme le masse sociali tramite un elevato numero di processi d'addomesticamento della civiltà. Colpiamo l'esistente nella sua interezza, anche se si è capaci di analizzare quasi separatamente i pilastri centrali del dominio e i suoi punti a mente che si tratta di un tutto indivisibile. Nel contesto di creare brecce, di aprire aree di azione anarchica e conquistare un maggior numero di esperienze e momenti anarchici più intensi e più nostri possibile, gli anarchici insurrezionalisti scelgono di attaccare il dominio nella sua totalità, non mirando all'autogestione o alla conquista che è la riforma delle parti, ma bramando la continua devastante guerra contro di esso. Contrari alla tirannia delle masse, noi poniamo la rivolta individuale, cosciente e pratica, che diventa collettiva in un modo informale e diffuso quanto diventa necessario, impostando così un contrappeso al regime. La rivolta anarchica costante non ha un fine ultimo e una data di scadenza. è un processo costante di distruzione a più livelli. Il viaggio liberatorio è probabilmente l'unica cosa concreta in un mondo che umilia tutto il mondo esponenziale. Gruppo anarchico, sinfonia del caos. E questo era il testo con cui apriamo la controinformazione oggi, a testo di presentazione di questo nuovo gruppo, che poi si vedrà dove andrà a finire, però per ora c'è una presentazione, ora aspettiamo anche qualche fatto concreto a tante parole, sperando che non sia uno dei tanti testi che fa fuoco e fiamme e poi alla fine al valore delle cose tutto fumo e niente arrosto. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono i Laibach, Transmit Laibach, e poi dopo si torna qui con il continuo della lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. Mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände. Il giovane fu l'ultimo a uscire. Per qualche attimo rimase fermo sul marciapiede aspirando avidamente l'aria della libertà. La sera era fredda e buia. C'erano pochi passanti in giro. Gli sembrava di essere leggermente brillo, talmente lo stordiva il fatto di sentirsi libero, di poter dirigere i suoi passi dove più gli pareva e piaceva. Rifletté un momento. Che cos'è che doveva fare ora? Gli venne l'idea di andare al covo della Zipa al mercato basso, ma pensò che a quell'ora non vi avrebbe più trovato nessuno. Doveva anche recapitare gli scritti cuciti nel suo vestito. Non voleva recarsi a casa perché non sapeva che cosa fosse successo nel frattempo. Da circa un mese non aveva notizie da Mauricia Lubova. Beh, sarà diventata l'amica di qualche pezzo grosso bolscevico, magari di un commissario, pensò. La Komarovka era lontana ed egli aveva moltissima fame. Si ricordò di Mila, alla quale doveva anche consegnare la lettera del fratello morto. Non abitava lontano, si cacciò le mani in tasca e, tremando dal freddo perché era senza cappotto, si avviò frettolosamente verso la casa di Milena Kulikovsky. La trovò in casa. Vedendoselo comparire davanti, la ragazza proruppe in esclamazioni di sorpresa e di gioia. Sapeva già di aver perduto il fratello e si rallegrava di vedere uno dei suoi migliori amici. Jan le raccontò come fosse fallita la rivolta che doveva portare alla liberazione di tutti i detenuti, cosa della quale avevano parlato anche i giornali, e accennò ai motivi psicologici che avevano portato Ignazio al suicidio. Poi, per cambiare discorso, domandò alla ragazza come se la cavasse ora che era priva di mezzi. «Oh, discretamente», rispose Mila. «Faccio dei panini e li vendo alla stazione e guadagno parecchio». Jan strappò la fodera della giacca e tirò fuori le lettere. Ne aveva una quindicina. Trovò la missiva di Ignazio e la consegnò alla sorella. Con grande difficoltà, Mila riuscì a decifrarne il contenuto, scarabocchiato con una matita a caratteri minutissimi. Ignazio la informava che doveva avere del denaro da vari colleghi e da un certo ricettatore raccomandava a Mila di andarli a ritirare al più presto, spendendoli per i suoi bisogni. Jan si offerse di farle avere lui stesso il denaro, ma ad un tratto la ragazza esclamò: «Ma senti, noi stiamo chiacchierando e tu magari stai morendo di fame». «Oddio, certo non rifiuterei un boccone, non ho preso altro dopo la brodaglia di stamattina». «Beh, allora preparo subito qualcosa, vuoi cambiarti? Intanto avrei preso certamente i pidocchi in mezzo a quel sudiciume». «Oh no, no, no, la nostra cella era abbastanza pulita, ma certo mi laverei volentieri». «Beh, preparo tutto subito, adesso che Ignazio non c'è, sarai tu mio fratello d'ora in avanti». Jan disse che gli dispiaceva di recarle del disturbo, ma Mila gli rispose con sincera indignazione: «Ma non capisci che per me è un piacere? Non parlarne più se non vuoi farmi arrabbiare». E riempì subito un pentolone d'acqua calda, accese la stufa e tirò fuori dal comò dove custodiva la roba di Ignazio della biancheria e un vestito quasi nuovo. E poi si rivolse a Jan: «Ora vado a prendere qualcosa per la cena, intanto tu puoi lavarti e cambiarti con tuo comodo. Appena l'acqua è calda, versala in quel mastello. Credi, Jan, sono felice della tua venuta». L'alloggio era piccolo, appena una stanza e una cucina, ma lindo e indipendente. Jan vi si sentiva molto bene, tanto più che Mila come donna gli era sempre piaciuta. E dopo più di 2 mesi di astinenza forzata, il pensiero di trovarsi lì con una bella ragazza gli faceva accelerare i battiti del cuore. Di Maruscia, d'altra parte, non sapeva più nulla. Col suo ultimo pacco ricevuto appena i bolscevichi avevano occupato la città, era giunto un biglietto nel quale l'amante lo avvertiva che doveva partire per Mosca e che avrebbe cercato di tornare il più presto possibile. Appena l'acqua incominciò a fumigare, Jan la tolse dal fuoco e si lavò accuratamente. Poi indossò i panni di Ignazio. Mila tardava a venire ed egli incominciò a impensierirsi. Gli spiaceva di averla lasciata andare fuori sola di notte, ma infine udì i suoi passi dietro la porta e Mila entrò tutta eccitata e ansante, con le gote accese e i capelli scompigliati. «Come mai sei stata via tutto questo tempo? Incominciavo ad essere inquieto. Volevo trovarti a tutti i costi della vodka. Non ne bevi da tanto tempo, poveraccio, e stasera dobbiamo festeggiare la tua liberazione». La vodka mi piace, ma tu mi piaci di più, Mila. La tua presenza mi inebria più che se avessi bevuto. Ah, ma allora sei venuto solo per questo? No, non soltanto per questo. Ah, ho capito. Ognuno di voi uomini è un mascalzone, chi più chi meno. Pazienza. Gli altri li caccio via come cani, ma per te ho sempre avuto un debole. Mi è piaciuta sempre la tua franchezza. Beh, e allora aiutami ora, così andremo più presto a tavola. Jan capiva che la sua venuta rappresentava un cambiamento nella vita monotona di Milena e che questo faceva molto piacere alla ragazza. E dal canto suo, lei non aveva nulla in contrario a distrarsi un po' con quel bel giovane forte e slanciato. Le mancavano le carezze di un uomo e Jan le piaceva assai. Era libera, in ogni senso della parola, non aveva da render conto a nessuno ed era certa che non avrebbe perso la propria indipendenza concedendosi a Jan. Egli era soprattutto un ottimo compagno e un buon amico per lei. Non aveva nessuna delle pretese che hanno risolto gli amanti e i mariti. Sapeva anche che Jan non l'avrebbe legata semplicemente perché anche egli teneva troppo alla propria libertà. Beh, non se lo sarebbe mai immaginato Jan di passare la prima notte di libertà nel letto di Milena. Fu la prima grande esperienza erotica della sua vita, forse perché né lui né Milena erano soggetti ad alcuna costrizione e ad alcun pudore, né erano tenuti a freno dal timore di qualsiasi conseguenza. Nei loro amplessi non v'era ipocrisia né calcolo, erano generosi l'uno verso l'altra, liberi, spensierati e felici. Questi erano Ad Inferna con il brano Under My Skin. Ora si ritorna alla controinformazione. Diciamo subito che oggi tutta la controinformazione verterà sulla Grecia con vari testi. Abbiamo letto il primo, quello del gruppo Sinfonia del Caos. Ora invece è un testo dello Squat Nadir sui recenti avvenimenti. C'è anche una nota di radiazione, ma poi la leggiamo alla fine del testo. Il testo che ha per titolo Carcere di tipo C, tentata fuga delle CCF, scenario sull'osmosi tra i criminali e i terroristi, la feccia giornalistica. Non parleremo di come sono strutturate le carceri del tipo C, come sono state ricostruite e come saranno migliorate. Diremo solo che non sono una barriera impenetrabile o qualche mostro invisibile. Le carceri di guerra contro i prigionieri di guerra sono la risposta dello Stato contro gli anarchici che non hanno chinato la testa, che ogni giorno affilano le proprie asce di guerra, che non hanno interrotto o rinviato l'azione contro il nemico. Sono costruite per coloro che non si sono trasformati nei guerriglieri da bar o ideologi imprigionati verso la repressione. Inoltre lo Stato non ha mai risparmiato queste persone e il monopolio di violenza dello Stato esplode solo quando il suo ricevente lo mette in questione attraverso l'azione. Sulla tentata fuga delle CCF. 4 gennaio era la data fissata dai membri delle CCF per la fuga dal carcere di Cori dall'Os. Il giorno precedente gli sbirri hanno impedito la fuga, la quale ammettono era una delle meglio organizzate negli ultimi decenni. Nello stesso tempo iniziò la verbosità statale giornalistica parlando di nuovo della famosa osmosi criminale terroristica e dei duraturi legami tra anarchici e il sottosuolo, arrivando addirittura a sostenere che le bombe anarchiche sono state fatte e messe da criminali. Che importa se i compagni delle CCF hanno dato la propria spiegazione dicendo che il loro codice di valore e le loro ribelli coscienze anarchiche sono contrari a queste pratiche? Naturalmente nella prospettiva di fuga dal carcere quello che noi diciamo è che la collaborazione tra criminali e anarchici non è condannabile. Però la cosa più turba non è quello che lo Stato strombazza dai propri portavoci, ma la facilità con cui la maggior parte dell'ambiente adotta questi punti di vista, non volendo vedere l'ovvio e lo spirito di questo. Cioè che un'organizzazione anarchica di guerriglia ha elaborato un simile piano di fuga verso la libertà nelle condizioni del carcere. Poi c'è un post-scriptum che dice: forza alla compagna Angeliki Spiropoulos. Angeliki non è stata né trascinata né ha scelto la via sbagliata. Angeliki è una compagna meravigliosa che, dopo aver sperimentato diverse iniziative pubbliche e gruppi, ha scelto a suo onore l'azione legale di guerriglia. Le carceri non si migliorano, si demoliscono. Forza ai membri della CCF, forza ad Angeliki Spiropoulos. 24 gennaio 2015, spot anarchico Nadir. E questo era il testo dei compagni dello squat greco di Salonicco. Io ho messo una nota come radiazione in cui dice: il seguente testo viene pubblicato giusto per far avere un'idea di come la possa pensare una parte del movimento anarchico in Grecia riguardo alle amicizie con criminali comuni. Da parte mia penso che un conto siano le amicizie forzate nella realtà del carcere, dove chi vi è rinchiuso è costretto a convivere con persone con cui in una vita libera ne farebbe volentieri a meno, ed un conto è per chi è libero pensare che da certe amicizie possa nascere collaborazione. Ovviamente si tratta anche di capire a quali criminali si riferiscono alcuni compagni greci. Questa è una strada già battuta in Italia dalle BR, alleanze tra i Rossi e la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo dopo la liberazione del sequestro di Democristiano Cirillo e l'omicidio del vicequestore Amaturo a Napoli. un determinato tipo di criminalità non è per niente un secondo stato, come erroneamente pensano in tanti, ma è lo stesso stato che si diverte nel ruolo del Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Le amicizie sono un conto, vuoi perché ci cresci insieme nello stesso quartiere, vuoi perché si frequentano gli stessi luoghi di svago o perché si è costretti a convivere in carcere, ma la collaborazione è tutt'altra cosa. Questa era la nota di radiazione che volevo aggiungere già da un po', perché già da un po' che ci sono testi su questa tentata fuga dei compagni del CCF e la collaborazione con alcuni criminali. Non è niente diretto contro i compagni del CCF, ma era giusto una cosa mia che volevo comunque aggiungere, visto che si parla di amicizie con criminali comuni. Più chiaro di così si muore. Ora ci ascoltiamo un brano, lui è Mika Vainio, uno dei componenti dei Panzonic, il brano è Vandals, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. penne di pavone. Caro, il bastardo stava crepando di inedia. Dopo che Baran fu arrestato, Maruscia Lobova si prese cura spontaneamente della bestia, sebbene né Oleg né tantomeno Jan l'avessero pregata di ciò. Quando poi i bolscevichi occuparono la città, Maruscia ricevette una lettera da Mosca, da parte di suo marito, che le ordinava di raggiungerlo immediatamente. Ebbe appena il tempo, prima di partire, di preparare un pacco di provviste per Jan e di portarglielo in prigione, assieme a un biglietto che lo informava della sua improvvisa partenza. Gli scrisse anche una lunga lettera che consegnò a Pavka perché la consegnasse al giovane se e quando fosse uscito dal carcere durante la sua assenza. Fece le cose così in fretta e furia che si dimenticò di pregare qualcuno di occuparsi di Caro, benché sapesse da Jan che Pavka odiava la povera bestia e che certamente l'avrebbe lasciata morire di fame. Così Pavka rimase sola nella casa in cui un tempo vivevano i Nazevich e Baran. Di notte aveva un po' di paura, sprangava la porta alle finestre, si chiudeva in casa appena faceva buio e al mattino, tutta profumata e in ghingheri, si recava in negozio seguita dagli occhi di Caro, lucidi dalla fame e dall'odio. Di notte il cane usciva dal canile ed esplorava il terreno fin dove glielo consentiva la catena. Sapeva di non potervi trovare nulla da mangiare, tuttavia distinto di conservazione lo spingeva fuori ogni sera alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Quando cadde la prima neve, Caro poté placare la terribile sete che lo tormentava, ma gli spasimi della fame si fecero ancora più crudeli. Non riusciva a capire perché il suo padrone l'avesse abbandonato. Provava un'acuta nostalgia di rivederlo e di sentire ancora la sua mano accarezzargli il capo. Una notte espresse la propria disperazione con lunghi ululi lamentosi. Pavka si svegliò e non riuscì più a riprendere sonno. Era superstiziosa e quei lugubri ululi la facevano rabbrividire di paura. Ricordò allora una frase udita chissà da chi, chissà quando: i cani ululano quando qualcuno nella casa deve morire. E in tutta la casa ora non c'era che lei. La paura fu più forte dell'odio che nutriva per il cane. Pavka si domandò se non fosse la fame a far ululare così il bastardo, e pareva che piangesse, sì, lagnandosi di fronte alla natura della viltà e della crudeltà degli uomini, e ululava, ululava senza posa. Pavka non poté più resistere, si alzò dal letto col proposito di rovesciare addosso la bestiaccia un secchio d'acqua fredda, ma si disse che questo non avrebbe servito ad altro che a inferocirla ancora di più. Allora aprì con ira la credenza della cucina e vide una grossa pagnotta che aveva comprata da un contadino il giorno dell'arrivo dei rossi, temendo che la città rimanesse per qualche tempo senza provviste. E invece, nonostante i rossi si trovava di tutto a Minsk, bastava pagare con moneta sonante. Così la pagnotta era diventata dura come il legno e poi aveva cominciato a farla muffa. E Pavka la prese e aprì la porta e la scaraventò nel buio in direzione del canile. Caro emise un sordo ringhio e poi tacque. Pavka tornò nella propria stanza e si infilò sotto il caldo piumino. Caro, benché torturato dalla fame, non si avventò subito sul pane. Lo respingeva l'odore delle mani che l'avevano toccato, l'odore della donna che odiava. Lo fiutava nell'aria e soprattutto sulla crosta del pane, nonostante quell'altro odore di muffa che, pur essendo più forte, non riusciva a sopraffarlo. Ma la fame vinse ed egli addentò avidamente la pagnotta, facendo scricchiolare sotto i denti la crosta indurita. Quella pagnotta prolungò la vita di Caro. Quando il mattino seguente Pavka uscì alla solita ora per andare in negozio, non vide nessuna traccia del pane. Quello che Caro non era riuscito a trangugiare se lo era tirato nel canile. Dopo l'arresto di Baran, a Pavka non passò neppur per la mente di aiutarlo mandandogli denaro, viveri o sigarette come facevano tutte le altre. Anzi, era furiosa contro di lui perché non aveva provveduto a tutte le cose per l'inverno. Ora doveva andare lei stessa a comprare la legna, occuparsi dei cavoli in salamoia, farsi portare le patate, accendere la stufa, eccetera, eccetera. E un giorno sfogò tutto il suo rancore con Lidia Vala. È un mascalzone, come tutti i giovani del resto. Mi ha promesso mari e monti, e in fondo che cosa mi ha dato? So che ha comprato dell'oro, perché lui stesso un giorno mi ha fatto vedere parecchie monete da 10 rubli. Però si è guardato bene dal dirmi che aveva intenzione di nasconderle. Adesso che mi ha piantata, chi è che deve sgobbare? Canaglia! Si commuoveva a tal punto sulla propria sorte che le venivano le lacrime agli occhi. Era convinta di essere lei la vittima. Lidia annuiva premurosamente, perché Pavka, da quando conviveva con Baran, era diventata una delle sue migliori clienti. Si era fatta fare tanti di quei vestiti, una quantità di biancheria fine. Ne aveva spillati non pochi di quattrini a Pavka. Vlad Klepre ascoltava in silenzio la tirata di Pavka, ma a un certo punto non seppe più resistere, si alzò e le gridò in faccia: «Vipera! Vipera!» Sputò e uscì fuori, ma senza altro risultato che inviperire ancora di più la ragazza, che era troppo persuasa di avere ragione e di essere stata indignatamente sfruttata da Oleg. Non poteva fare a meno di sfogarsi con qualcuno quando gli si presentava l'occasione. Aveva dimenticato i tempi in cui andava in giro senza calze, d'inverno, con addosso solo un logoro cappottino e le scarpe scalcagnate. E allora il padre le lesinava il denaro e Tolus non mollava mai il becco d'un quattrino, soltanto sua madre, misurando il centesimo, riusciva a comprarle ogni tanto qualche cosa. Il negozio di Pavka, situato in via Zakarievska, era molto ben avviato ora. Certo era un po' distante dal centro, ma la clientela era ugualmente numerosa. Moltissimi erano i militari che lo frequentavano. Pavka vendeva anche frutta, salsicce, sigarette e altri articoli di grande smercio. Le capitava anche di barattare viveri per oggetti di valore. Era diventata un affarista scaltrita a tutte le astuzie e senza troppi scrupoli. Se le offrivano della merce di provenienza losca, fingeva di non accorgersene, purché fosse un buon affare per lei. Evitava soltanto di trafficare con roba dell'amministrazione militare per paura di guai assai grossi. Quando arrivarono i primi freddi, Pavka acquistò, mediante il baratto, un magnifico samovar e incominciò a servire ai clienti anche il tè e i panini imbottiti. Mise qualche tavolino nel negozio e questo attirò una clientela ancora più numerosa. Di sera, dopo aver chiuso il locale, Pavka ritornava a casa da sola e, messo il catenaccio alla porta, incominciava a fare i conti della giornata. Il suo capitale cresceva a vista d'occhio, ma Pavka non aveva alcuna intenzione di fare le cose più in grande. Le bastava che la sua baracca le rendesse bene, anche se aveva l'aspetto di un misero bazar. Ogni giorno acquistava qualche moneta d'oro che nascondeva assieme alle altre, e benché ne avesse già una cinquantina, continuava a pensare a quelle 4 che un giorno Baran le aveva mostrate. Non si immaginava neppure che fossero custodite dall'odiato bastardo Caro. Questi crepava di fame sull'oro del proprio padrone che un giorno gli aveva salvato la vita. Ma se anche fosse stato capace di parlare, non avrebbe mai tradito il suo segreto. naked sheet, indescribable. Too much blood! Where'd you get your delusions from? Questi erano Eteri Teenage Riot con il brano Blood in My Eyes. Ora si ritorna alla controinformazione, quindi come avevamo detto prima si resta sempre in Grecia e leggiamo un testo dei compagni del sito di Interarma dal titolo Togliendo la fanchiglia. Questo annuncio è la risposta agli articoli pubblicati dalla varia feccia dei media del regime che coinvolgono Interarma nei loro rapporti riguardo ai manoscritti che si trovano tra i ritrovamenti del caso della tentata fuga dal carcere del gruppo anarchico Cospirazione delle Cellule di Fuoco, ma anche alla triste ma attesa speculazione da parte del cosiddetto ambiente anarchico. Per oltre un mese, con il festival elettorale da sfondo, l'agenzia antiterrorismo e i suoi informatori hanno portato avanti nei media una vasta campagna comunicativa nel contesto della tentata fuga dal carcere delle CCF e di alcuni detenuti criminali. Dozzine di reperti, teorie, aggiornamenti della polizia, conversazioni telefoniche e interviste sono stati rilasciati in pubblico. Non è la prima volta che gli informatori degli sbirri ci coinvolgono nei vari modi in tali situazioni. E mentre di solito usano più fantasia, come nel caso del progetto Nemesis, quando si riferivano a noi come parte del progetto, questa volta ci colpiscono per l'evidente, cioè per la comunicazione con i compagni detenuti nelle segrete della democrazia. Il motivo per cui le agenzie antiterrorismo si muovono a livello internazionale su piano comunicativo e operativo contro progetti come Interarma è stato analizzato molte volte. I progetti di controinformazione di quegli anarchici che ancora considerano la lotta anarchica come una battaglia contro il regime sono un palese bersaglio per il nemico. Adesso arriviamo alla parte più triste. Lasciateci ancora una volta affermare l'ovvio e allo stesso tempo chiarire la nostra opinione sulle cose. Le persone che gestiscono questo progetto prendono tutto in considerazione, senza paraocchi, e non si formano un'opinione in base agli articoli dei media del regime, sui pregiudizi personali, sui complessi politici e sui calcoli di un possibile plusvalore politico. Non si formano l'opinione senza aver letto le dichiarazioni di tutte le persone coinvolte ogni argomento che è stato aperto e scegliendo i significati adatti al proprio immaginario. Interarma è un progetto di controinformazione e di diffusione della teoria e pratica dell'anarchia nera e in questo contesto sostiene le CCF e altri detenuti in Grecia e fuori. Non è né l'ufficio politico delle CCF né si identifica necessariamente con ogni un esempio di questo è la costante assenza di ogni sostegno di Interarma a Christodoulos Xyros, per un motivo molto semplice, che il progetto ha esplicitamente dichiarato che non ha alcuna affinità in nessun contesto con i soggetti in mente a quale delle sue tensioni appartengono e da mezzi di lotta che hanno scelto di utilizzare. La logica della guerriglia urbana quindi compagni appartiene ad altri, non a noi. Le uniche pubblicazioni che menzioniamo di Xyros provengono da altri progetti, gruppi e organizzazioni, i cui scritti noi pubblichiamo per affinità con loro. Oltre a ciò, quando abbiamo fatti sicuri riguardo ad ogni evento, scegliamo di fare le nostre critiche politiche. etiche e personali a coloro che dobbiamo. Non ci affrettiamo mai a fare una dichiarazione pubblica quando si verifica un evento, per coordinare con questo ridicolo, spregevole e meschino gioco politico degli equilibri, in cui la gran parte dell'ambiente anarchico ha raggiunto la fase di incagliarsi quasi tutta la propria esistenza. Infine, chiunque intende ferire attraverso gli attacchi alle CCF l'intera anarchia nera fatica invano. Ogni compagno, ogni progetto pubblico, ogni organizzazione ha una sua vita autonoma. L'anarchia insurrezionale entra dinamicamente in gioco nel mondo intero, e ognuno capace di togliere la propria testa dalla fogna in cui vive e di guardarsi intorno senza paraocchi lo può capire. Forza compagni delle cellule di fuoco, informatori e politici meschini, stata alla larga, avanti compagni. E questo era il testo dei compagni di Interarma, che da quando si capisce stanno subendo un po' quello che comunque ha subito Radiazione una settimana fa, con la visita dei servizi segreti croati, le minacce e un po' tutte le cose che sono state aggiudicate un po' a Interarma vengono additate anche contro Radiazione. Quindi si vede che questo fa parte di un livello, di un progetto internazionale. Qualcosa si muove ad Oriente. E quindi cioè, non è solo un fatto croato, ma una cosa molto più estesa a livello dell'Unione Europea. Questo era il testo dei compagni di Interarma. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Hardwire, con un brano fatto preso apposta in Sirius Network, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. La settimana dopo Jan andò in giro a consegnare i biglietti che gli erano stati affidati dai compagni di carcere. Non li aveva neppure letti, benché le leggi della mala non lo vietassero. Prima che uscisse, Mila gli preparò una buona colazione e gli disse: «Sai, vieni pure ogni volta che ne hai voglia. Cercherò di darti tutto ciò di cui avrai bisogno. Ricordati che sono in casa soltanto la mattina presto e alla sera. Tutto il giorno lavoro alla stazione». Jan la ringraziò, promettendole ancora di occuparsi personalmente dei suoi affari e di farle avere al più presto i crediti che aveva in giro e che costituivano l'unica eredità lasciatale dal fratello. Per prima cosa si recò al covo di Zipa, dove trovò Filippo il Calvo seduto a un tavolo in compagnia di un altro dritto dall'aspetto grottesco, chiamato il Verme. Ambedue centellinavano un bicchiere di vodka, e appena Filippo lo riconobbe, sbadigliò nervosamente e si alzò per stringergli la mano. «Ma guarda, guarda chi siede! Te la sei squagliata o ti hanno fatto uscire con gli squilli di tromba e tutti gli onori?» «Proprio così. Ho qui due righe per te». «Ah, bene, da qua». Stese sul tavolino il biglietto tutto spiegazzato e decifrò a fatica tutti gli scarabocchi mezzo cancellati e sbilenchi. «All'albergo Europa, numero 13. Il mio socio ha sequestrato la mia parte di un certo affare di Mosca. Chissà dove diavolo è, fa un sopralluogo per piacere se lo trovi a raffa pure tutto, meno la mia parte, che mi fai la grazia, sì, di consegnare alla cassa assistenza compagni pizzicati. Un altro mio socio ha tirato le cuoia a Smolensk. Se sono qui a marcire per il tradimento. Lui si chiama Antonio Solov. Aiutami e cerca di versare una cauzione, Dushek. Post scriptum. Ti ricordi Arkhangelsk e la deportazione? Sì, il dritto che sei sempre stato e porgi la mano ad un vecchio collega». Filippo non riuscì a ricordarsi subito di Dushek, seppure si chiamava così con quello sgorbio di firma. Aveva passato così tante prigioni, girato così tante città, conosciuto tanti dritti. Come poteva muoversi con sicurezza nella giungla dei suoi ricordi? E finalmente, dopo aver esplorato a lungo le plaghe più remote della sua memoria, si rammentò di un certo dritto di Mosca col quale aveva lavorato. Si rammentò di essersi nascosto con lui, poi di essere fuggito con lui ad Arkhangelsk, dove erano stati prelevati quasi subito. Sì, sì, poi si erano persi di vista e infine si erano incontrati ancora nelle squadre di galeotti addetti ai lavori della ferrovia. Ho capito che è un ragazzo d'oro!» esclamò animandosi tutto. «Che affari abbiamo fatto assieme noi due, cantando e con le bandiere al vento, si può dire. Sì, sì, certo, in seguito è finita male, ma non importa, si filava che era un amore. Dobbiamo assolutamente scoprire dove quel farabutto dell'albergo tiene il suo gruzzolo e soffiarglielo via. Se vuoi far parte della spedizione, non far complimenti, Jan, mi raccomando. Sei appena uscito dalla gattabuia e credo che non ti farebbe male di metterti un po' in carreggiata». Jan accettò volentieri. Si accordarono di incontrarsi l'indomani sempre della Zipa per studiare insieme il da farsi. Per quel giorno ormai ognuno aveva da fare per conto suo. Filippo aspettava un'informatrice, la cinesina, e Jan voleva al più presto consegnare le lettere, andare a trovare la madre e vedere un po' come andavano le cose a casa sua. Filippo gli diede l'indirizzo di Kasik Moretzky e di altri due dritti. Quanto alle altre lettere, avrebbe potuto affidarle al cittadino, che sarebbe pure venuto al convegno del giorno dopo. I due amici si salutarono ripromettendosi di vendicare il povero Dushek. Appena sbrigate le sue commissioni, Jan si recò dalla madre. La via Kamenna era solitaria e silenziosa come il cimitero che fiancheggiava. Trovò in casa soltanto la madre, che lo accolse con grandi dimostrazioni di tenerezza. Jan fu lieto di sapere che la vecchia non aveva avuto seccature per colpa sua, né perquisizioni, né intimazioni di presentarsi in questura. Nulla. «Jan, figliolo mio», gli disse la madre, «tu fai una brutta vita. ho paura che ti capiti qualcosa un giorno o l'altro. Vieni a stare qui con noi, lascia le tue amicizie e in qualche modo ci arrangeremo, vedrai. Mamma, non è ancora il momento, mamma. Bisogna prima che arrivi dove mi sono proposto di arrivare. E se non fosse per quei miei amici che tu tanto disprezzi, non avremo nulla di tutto quello che adesso abbiamo. Hai già dimenticato, mamma, che cosa vuol dire la fame? Preferisco la fame pur di avere la pace. Sì, sì, mamma. Sono cose che si dicono, ma poi d'altra parte non hai avuto noie di nessun genere finora. Ed è perché io voglio che tu non ne abbia mai, che non rimango con voi. Ma è meglio non parlarne più, ognuno deve seguire il suo destino. E del resto, mamma, puoi star tranquilla perché fra poco pianterò tutto. Non ho bisogno di molto ancora, abbiamo già una casetta, un'osteria in società con lo zio, questo ci basterà, ma prima voglio sistemare tutto per bene con i miei amici e aiutare chi ha bisogno ancora di me, perché solo grazie a loro noi abbiamo qualcosa. Si udì sbattere il cancelletto e dopo un attimo Ella entrò nella stanza. Jan la riconobbe appena, aveva solo 17 anni, ma ormai sembrava una donna fatta. Era piuttosto sì, civetta, come si dice, e le piaceva vestir bene. Ma com'è bella, pensò Jan, alta, slanciata, armoniosa nei movimenti e con un corpo essi perfetto. Era spavalda e sicura di sé, ma anche molto inesperta, e ciò faceva stare in pensiero la madre. Temeva che Ella si innamorasse di qualche mascalzone e che la sua vita potesse esserne rovinata. Ma poiché le sue prediche non facevano che irritare la figlia, aveva finito per non dirle più nulla, limitandosi a pregare il buon Dio cane perché vegliasse sulla sua creatura. «Perché non saluti tuo fratello?» le chiese la signora Natsevich. «Non lo vedi da tanto tempo!» «Non me ne importa!» rimbeccò Ella con un tono petulante. «È lui che deve salutarmi per primo!» «E che modo di rispondere è questo?» le chiese sorpreso Jan. «Io me ne infischio, sai, di te e del resto del mondo!» Jan sentì il sangue salirgli alla testa. L'impudenza di Ella si spingeva dunque fino al punto da fare dimenticare che quello che aveva lo doveva esclusivamente a lui. Ella, bada come parli. Ma andate al diavolo a tutte e due, tu e la mamma, disse inviperita. Puh! Sputò a terra e uscì. Senza dir parola, Jana la rincorse e, afferratala per un braccio, con l'altra mano le lasciò andare un marrovescio in pieno viso. Ella gli si rivoltò contro come una belva e, stringendo i denti, lo investì con una scarica di pugni cercando di colpirlo in viso. Era un pezzo di figliola, forte, robusta e agile. Ambedue lottavano senza parlare, con feroce accanimento, come due mortali nemici. Dopo 5 minuti, Jan lasciò la sorella stesa per terra. Era tutta piena di lividi e un filo di sangue le colava giù per il naso. Giaceva supina e il suo vestito era tutto in brandelli. Anche la biancheria era qua e là strappata, lasciando intravederne il corpo. Ansimando, raspava con le unghie il pavimento, ma come aveva taciuto prima durante la lotta, così anche ora si era chiusa in un mutismo ostinato. Jan rientrò nella stanza e trovò sua madre che piangeva con la testa appoggiata sul tavolo. Non disse nulla al figlio dei dolori e delle umiliazioni che Ella le infliggeva continuamente. Aveva sperato che il figlio, uscendo dal carcere, sarebbe venuto ad abitare con lei. Almeno sarebbe stata trattata un po' diversamente dalla figlia, ma ormai questa speranza era svanita e la sua casa avrebbe continuato ad essere un inferno. Mamma, non devi piangere, non aver paura, perché la insegnerò io a vivere, saranno botte finché non imparerà a rispettarti. Ma la signora Natsevich continuava a piangere, i singhiozzi le facevano sussultare le spalle. Jan rimase con lei ancora un po' di tempo, poi si alzò e andò in cucina per lavarsi le mani. Quando ritornò per salutarla, sua madre gli chiese: ma non prendi nulla? Te ne vai senza mangiare un boccone? Mamma, grazie, ma Adesso non ho fame. Arrivederci, dunque. E si chinò a baciarla e uscì sul portico. Era sparita. Allora ritornò in cucina Jan per la porticina esterna e vi trovò la sorella che doveva esservi sgusciata mentre egli si congedava da sua madre. La ragazza si era tolta il vestito e si accingeva a lavarsi il viso e le mani imbrattate di sangue. Vedendo avvicinarsi suo fratello si raddrizzò nella persona e gli piantò in faccia due occhi duri e pieni di rancore. Jan si sentì venire di nuovo il prurito nelle dita, ma si frenò, dato che Ela si trovava lì mezzo nuda. Disse soltanto con severità: se non chiederai scusa alla mamma, te ne andrai di casa. E ricordati che un'altra volta non mi limiterò a farti delle carezze. Se hai i nervi fuori posto, ci penserò io, sì, a guarirli. Si era fatto tardi ormai. Uscito di casa, Jan si diresse di buon passo verso la collinetta d'oro. Aveva fame, sì, anche freddo, perché indosso non aveva che il leggero abito che gli aveva dato la Mila. Quello che aveva prima gliel'aveva lasciato perché lo rimettesse in ordine, dato che il soggiorno in carcere lo aveva conciato da far pietà. Era anche senza palto, come si diceva. Di giorno non soffriva tanto il freddo, ma di sera c'era da battere i denti. Le strade erano quasi deserte. Solo in via Zakarajevska c'era un po' di movimento e lui arrivò al numero 157, ma le finestre erano tutte chiuse con le imposte, da nessuna di esse trapelava un filo di luce. Entrò nel cortile e fece il giro della casa. Buio, pesto e silenzio di tomba. Pavka sarà fuori oppure ha cambiato alloggio? Rimase lì indeciso, non sapendo che pesci pigliare. Voleva a tutti i costi entrare in casa propria, ma in quella di Maruscia Lobova, per prendersi il paltò che vi aveva lasciato. Si ricordò allora di Victor, il meccanico col quale aveva suonato la chitarra e il mandolino, ma anche la sua abitazione era chiusa. Ispezionò ancora il cortile e uscì dall'altra parte, davanti all'alloggio di Baran. A un certo punto si vide davanti la casetta di Caro il bastardo. Dove sarà? Si chiese. Si chinò per guardare e subito udì un sordo ringhio provenire dall'interno. Ma Caro non si mosse, né si mise ad abbaiare più forte. Era troppo sfinito per reagire, tuttavia, fiutando l'aria, comprese sì che si trattava di Jan, affinità il cui odore aveva sentito spesso insieme a quello del suo padrone. Era uno che gli aveva portato tante volte da mangiare, quindi cercò di trascinarsi fuori dal canile, ma non vi riuscì. Allora Jan allungò la mano e, afferratolo per le zampe, lo tirò fuori. Bastardo non oppose alcuna resistenza, era tutto per le ossa, floscio e leggero. Sibilò Jan a denti stretti, pensando a Pavka. Tolse il collare alla bestiola e se la mise più morta che vive nel petto, sotto la giacca. Poi uscì e prese una direzione qualsiasi. Adesso non sapeva proprio dove andare a sbattere. Savage, uncivilized, treacherous. E questi erano Information Society con il brano SICK 300. Ora si ritorna alla controinformazione con un altro testo proveniente dalla Grecia, il testo del compagno Nikos Romanos, letto durante l'iniziativa Vox Squat il 9 gennaio di quest'anno. Il testo lo divideremo in due parti perché è bello lungo. Ci vogliono le bombe dell'ossigeno. No, Marcello si legge pure un bel po' di pagine, non ce la faccio. Allora, c'è sempre l'aria viziata della cameretta. E poi l'aria viziata di soffoca, quindi. Allora, iniziamo il testo di Nikos che dice: buonasera compagni. Sono contento di essere qua con voi a questa iniziativa che si svolge in un periodo particolarmente difficile, soprattutto per i detenuti politici colpiti dalla repressione. È stato detto molte volte, ma vale dirlo ancora una volta, che iniziative simili rappresentano dei momenti bellissimi per i detenuti, perché sentono che almeno per qualche ora sono collegati con i propri compagni oltre le mura, in una vibrante conversazione che rompe l'isolamento imposto dallo Stato. Per questo voglio ringraziare tutti i compagni che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. Voglio anche inviare la mia solidarietà agli arresti di Dostomo. Per me, dato che la situazione è cambiata, la questione principale di questa iniziativa non sarà un discorso centrato solo sullo sciopero della fame, che sia anche questo, ma adesso mentre parliamo ci sono i detenuti politici che vivono nell'isolamento e subiscono la violenza psicologica della detenzione speciale. Quindi per me questo sarebbe un insulto a questi compagni, perché è nostro dovere sostenerli con tutti i mezzi, e questo dovrebbe essere la sfida per tutti coloro che si inseriscono nella lotta multiforme che stiamo cercando di creare. Ciò che è importante che esca dall'odierna conversazione tra di noi è quello di riuscire a creare un campo di scambio di esperienze e prospettive, che non alimenterà un altro confronto interno, ma promuoverà la lotta stessa, una lotta che cercherà e troverà i modi per erigere le barricate contro l'attacco repressivo e portare fuoco dietro le linee del nemico. Sarebbe sicuramente molto più piacevole per tutti noi se l'iniziativa di oggi si svolgesse durante un periodo relativamente neutrale, diciamo un tempo morto nei termini di attività nel movimento, quando si avrebbe la comodità, quello che cerchiamo di fare oggi, senza pensare ad altro. Ma purtroppo non ci possiamo concedere questo lusso, un lusso a disposizione dello Stato che si ripiega velocemente e nello stesso tempo velocemente trasforma la sua retorica politica, come l'ha fatto in questa fase. Il governo, a prescindere dal punto di vista che alcuni compagni possono avere, sapeva che dopo lo sciopero della fame era stato esposto in termini politici ad un pubblico di estrema destra che flirta con esso e ha voluto dimostrare la sua volontà di ferro e fermezza colpendo i propri avversari nel carcere, cioè i detenuti politici. Per questo motivo la sua campagna di estrema destra, identico a quello di Alba Dorata, che si riferisce alla repressione dei prigionieri politici, alla campagna contro gli immigrati e all'attacco contro ogni espressione radicale di resistenza. A questo punto, parentesi per affrontare le questioni iniziali sollevate da compagni che hanno organizzato l'iniziativa di oggi. Sto parlando di una parentesi perché penso, come dissi all'epoca, che per tutti non qua, la domanda è come reagiremo, come risponderemo alla repressione e contemporaneamente espanderemo il contesto di lotta. Inizierò dicendo un paio di cose sull'atteggiamento dello Stato durante lo sciopero della fame, ho descritto brevemente nel comunicato che ho reso pubblico oggi. Esso è passato attraverso quattro fasi dell'indifferenza, atteggiamento maschilista e infine di panico. Penso che questo particolare sciopero della fame ha aperto una breccia di VOC, un fatto che forse è successo solo a livello individuale ai resto dei compagni che hanno sperimentato lo sciopero della fame. Dobbiamo ricordare solo questo, nulla di più, nulla di meno. Immagino che tutti voi avete di fronte il testo che spiega le mie opinioni su questo argomento e sulle questioni centrali di questa iniziativa. Ma vorrei parlare di una parte specifica dello sciopero della fame che riguarda la sua pubblicità. È stata forse una delle poche volte quando lo sciopero della fame è diventato una questione politica centrale per il regime, ricevendo molta notorietà. È logico quindi, quando una tale questione appare nelle notizie, tutte le parti della scena dei sistema coinvolte prenderanno una posizione per servire i propri interessi politici e i propri fini politici, indifferentemente se parliamo dei partiti politici o elementi del sistema e antisistema, come gli attori sindacalisti e istituzioni sociali. Ognuno esprime la propria opinione. Quando questo succede pubblicamente, è naturale che il contesto di lotta viene alterato. Lo spettacolo possiede questa abilità di modellare significati e di presentarli a modo proprio, ma questo è il motivo per cui esistiamo, con i nostri testi, con i nostri progetti di controinformazione, i nostri interventi nelle stazioni radio e TV. Imprimiamo il nostro marchio cercando di creare dei brevi intoppi nell'incessante flusso di informazioni della televisione democratica. Menzionerò un esempio rilevante per chiarire la situazione nel miglior modo che posso: quando un gruppo rivoluzionario compie un attacco armato o quando, per esempio, ci sono grandi scontri per le vie della città. Non succede la stessa cosa? Il contesto della lotta non viene alterato nello stesso modo? E qualcuno ci critica per il fatto che abbiamo preso le strade? No. E questo è ciò che è accaduto in questa occasione e con le caratteristiche che tutti conosciamo. Questa era la prima parte del lungo testo di Nikos Romanos, che intervalleremo anche con una lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki, e per il momento ci ascoltiamo un brano dei Ministri che ha per titolo Die in a Crash, e poi dopo la lettura ritorneremo su Nikos. Take it. e Pavka troneggiava nel suo bazar pieno zeppo di clienti. Aveva preso da poco una ragazza perché da sola ormai non ce la faceva più a badare a tutto e a tutti soprattutto. Aveva aggiunto altri due tavolini e incassava soldi a palate, benché non la smettesse mai di lagnarsi con tutti della sua infelice sorte di donna abbandonata e tradita. A sentir lei, l'esercizio le rendeva appena il necessario per non morire di fame. Parlava sempre dei tempi difficili, delle forti spese, della crisi e delle spese che doveva sostenere, dell'affitto elevato, delle tasse, e alla servetta invece non faceva altro che contare i bocconi. Con i clienti invece era sempre carina e premurosa e li colmava di parole gentili, di complimenti e di moine. Ogni tanto veniva in negozio sua sorella minore, Stascia. Aveva 15 anni ed era pallida e magra come uno stecco per la continua denutrizione. Dopo la morte della madre, lei e Julek vivevano completamente abbandonati a se stessi, come fossero orfanelli, perché il padre, ubriacone, non si curava minimamente di loro. Era sempre affamata Stascia e si lagnava con la sorella per la dura vita che le toccava fare. Anche la mia non è facile, sai, devo sgobbare dalla mattina alla sera in questa baracca senza un minimo di riposo. E la sorella piccolina, ma ti aiuterei volentieri, le aveva detto timidamente una volta. E anche Julek potrebbe aiutarti, non so, con qualche commissione, tenere in ordine il locale, potrei servire i clienti, anche lavare i piatti. Ma Pavka aveva preferito prendersi un'estranea a servizio, perché non voleva che i parenti serpenti fossero informati dei suoi guadagni e che le facessero i conti in tasca. Dava a Stascia gli avanzi di pane e di salsiccia lasciati nei piatti, avvolgeva tutto in un pezzo di carta e, consegnando l'involtino alla sorella, le diceva: «E ora vattene, perché io non ho tempo di badare a te». Qualche volta capitava lì anche Filippo il Calvo. La salutava nel modo più distinto, comprava un pacchetto di sigarette o qualcosa da sgranocchiare lì sul posto e, dopo aver fatto due chiacchiere, usciva tutto compunto e solenne come era entrato. Di solito faceva una capatina quando passava di lì per recarsi da casa sua alla Komarovka. Non parlava mai di affari con Pavka, perché sapeva che l'amante di Baran era una merla. Tra i clienti ce n'erano diversi che facevano il cascamorto con l'avvenente padroncina e magari anche ai suoi quattrini, che, a giudicare dal movimento che c'era sempre nel locale, non dovevano mica essere pochi. Ma Pavka ormai la sapeva lunga e, nonostante il suo temperamento caldo, teneva a distanza i suoi corteggiatori. La lezione inflittale dal beneamato Tolus, il parrucchiere, ricordate, le era servita certo qualcosa. Tuttavia, da qualche tempo frequentava il negozio con sempre maggiore assiduità un ufficiale bolscevico russo comunista. Era un giovane alto, bruno, dagli occhi e dai capelli nerissimi. Era capace di sedere per delle ore davanti ad una tazza di tè, seguendo Pavka in tutti i suoi movimenti, con uno sguardo tale che sembrava volesse mangiarsela. Non conosceva il polacca e parlava stentatamente il russo, e non gli riusciva agevole perciò imbastire dei complimenti alla ragazza che aveva incontrato le sue simpatie. Pavka, benché non lo desse a vedere, incominciò a interessarsi di lui. Seppe che era ufficiale della polizia militare ferrovia Gregor, come uno scarafaggio di internazionale conoscenza. Il comandante, così, un giorno si qualificò egli stesso, presentandosi a Pavka, e ora passava tutto il suo tempo libero da lei. Incominciò perfino ad accompagnarla a casa, ma Pavka non gli permise mai di varcarne la soglia. Diceva di essere sposata e di non poterne quindi invitare a casa sua. accettò invece di andare qualche domenica a spasso al cinema con lui e queste scappate si concludevano sempre con un congedo sulla porta di casa, e ciò finì per stancare il comandante, che un bel giorno si recò da solo in via Zakarajevska e, fingendo di cercare una camera in affitto, ebbe da Lyuba Poyarska tutte le informazioni su Pavka. Così venne a sapere che abitava sola, poiché il suo fidanzato, un calzolaio, era sparito dalla circolazione da qualche mese. A Lyuba non parve vero di sputare tutte le cattiverie e tutte le malignità che poteva sul conto di Pavka, ma tutto ciò non parve affatto raffreddare minimamente i bollenti spiriti di Gregor, sempre lo scarrafone, che anzi, visto come stavano le cose, decise di procedere con maggiore energia. Pavka stessa favorì i suoi piani, pregandolo il giorno seguente di andare a uccidere un cane che si trovava nel cortile di casa sua e che le dava terribilmente sui nervi. Mangia come un lupo e per di più di notte non mi lascia chiudere un occhio con i suoi continui ululati. Ma per te ucciderei anche 100 cani, bella mia. Di sera, dopo la chiusura del negozio, si avviarono insieme verso la casa di Pavka. Era tardi, le vie erano deserte, il vento faceva turbinare la neve che incominciava a cadere. Gregor stringeva il braccio di Pavka. Giunti nel cortile del numero 157, Pavka gli indicò il cane, il canile dove viveva Caro, il bastardo. Non sparate finché non sono in casa, ho una paura tremenda di spari. Il comandante bolscevico sfoderò con gesto eroico la rivoltella. Pavka entrò in casa ed egli si diresse con passo guardingo verso il canile, temendo che il cane potesse morderlo. Il cane non dava segni di vita. Gregor si chinò, accese la pila elettrica e illuminò l'interno del canile. Era vuoto. A terra, lì vicino, c'erano un guinzaglio ed un collare. Ah, il cane era dunque un pretesto per condurmi qui, furbacchiona, pensò il comandante avviandosi verso l'alloggio di Pavka. La ragazza uscì sbattendo la porta dietro di sé. E si può sapere perché non hai sparato? Non c'è neanche l'ombra di un cane là dentro. Come? Si avvicinò incredulo al canile, ma dovette constatare con sua sorpresa che Caro, il bastardo, era scomparso. Ah, sei scappato, tanto meglio, disse. Così non avremo da sgombrare la sua carogna, sa, grazie lo stesso e arrivederci. Ma Gregor, invece di allontanarsi, si diresse verso la porta. Paolinka gli sbarrò la strada. Ti ho detto che non è possibile. Un ufficiale può entrare dove gli pare e piace. E nonostante la resistenza di Pavka, entrò e rimase con lei tutta la notte. L'indomani mattina Pavka si svegliò per tempo, mentre il suo nuovo amante era ancora immerso nel sonno. Scontenta. Aveva creduto infatti che un uomo così gagliardo le avrebbe dato chissà quali emozioni, ma era rimasta in effetti delusa. Fare i propri desideri senza minimamente curarsi di lei, non aveva fantasia, era goffo e brutale, sì, brutale nei suoi amplessi. Irritata e di malumore, Pavka aprì le imposte e si diede ad ordinare la casa. Ogni tanto lanciava un'occhiata piena di animosità verso Gregor, che giaceva supino sul letto russando con la bocca aperta. Da sotto le coperte uscivano le gambe pelose, coi piedi sporchi e pieni di calli. Il loro fetore si spandeva per tutta la stanza. Ma what's happening here? War is happening. Yeah. Questi erano Lights of Euphoria con il brano Fly to Target. Ora si ritorna alla controinformazione, continuando il testo del compagno Nikos Romanos inviato all'iniziativa allo squat anarchico Vox. Allora, spostiamoci adesso sul tema della mia attività personale durante lo sciopero della fame. Per prima cosa voglio dire che ho letto due tipi di critiche, alcune di queste erano notevoli ed esprimevano delle preoccupazioni consistenti e meritano di essere prese in considerazione. E critiche di persone che io letteralmente ritengo delle vittime, una guerra regolare contro di me con ironia ed insulti usando la mia famiglia e l'avvocato. A tutto questo pattume, come la vedo io, che fanno tutto questo per ricevere un po' di attenzione e ricordarci che esistono, non ho nulla da rispondere. Sarebbe come rispondere ad una critica fatta da Eleni Luca. Questa è la loro qualità, dirò solo che la vita è una ruota che gira per tutti noi. Agli altri invece, a tutti coloro che credono che il senso della critica sta nel tentativo dialettico di analizzare i possibili errori, carenze ed omissioni per creare quei bersagli politici che agiranno per promuovere la lotta in sé, darò alcune risposte. Iniziando con l'autocritica, prima di tutto riconosco come un'omissione il fatto che i compagni fuori dal carcere sono stati informati solo poco tempo prima dell'inizio dello sciopero della fame. Se ciò fosse stato reso noto prima, avrebbe potuto portare ad una strategia d'azione con dei risultati anche migliori. Inoltre, un altro problema era la mancanza di comunicazione effettiva con i compagni fuori dal carcere nel periodo quando mi trovavo in ospedale, ma posso dire che le condizioni di detenzione nell'ospedale erano soffocanti, le visite erano concesse solo ai miei genitori e all'avvocato con durata limitata e in generale era una situazione particolarmente difficile se si tiene conto del fatto che non erano al mio meglio a causa dello sciopero. Ora, per quanto riguarda mio padre, non entrerò in un processo conflittuale in pubblico con una persona amata. Lui oggi si trova qua e così ognuno può chiedergli quello che vuole. Infine, per quanto riguarda l'avvocato, come ognuno può capire, quando affronti una specie di guerra di comunicazione e quando hai la possibilità di rispondere comunicando, è bene farlo. Non importa se quello che lui dice sia vero o meno, in entrambi i casi parliamo di istantanee impressioni virtuali. Io penso che quello che è stato fatto bene. Voglio anche dire che Franciscos non è solamente mio avvocato, ma una persona con cui sono in ottimi rapporti personali e che mi ha sostenuti più di molti altri. Per quanto riguarda le caratterizzazioni che molti gli hanno attribuito, consiglio a loro di volgere la propria attenzione agli avvocati ufficiali, tra virgolette, dell'ambiente anarchico e poi di parlare. Non dirò più di quello che devo per evitare un altro conflitto interno. Vediamo ora di dire alcune cose sui trasferimenti carcerari dei detenuti al carcere di tipo C a Domokos, che non dovrebbero essere visti come separati dalle attuali condizioni sociali e politiche che illustrano il fatto che lo Stato greco si trova nel periodo elettorale che determinerà il modello amministrativo del capitalismo greco. La cosiddetta dottrina della tolleranza zero viene applicata come strategia di base del governo. A mio parere, un possibile governo di Siriza, tenendo conto che la sua vita sarà breve, dovrebbe servire da sfida per le persone in lotta. Con l'azione che sarà quella che noi chiamiamo provocazione anarchica contro la retorica di sinistra di Siriza, dobbiamo costringergli a rilevare il loro vero volto, che è quello del capitalismo che non può essere né umanizzato né corretto, ma unicamente distrutto con una continua lotta con tutti i mezzi. Questo è tutto quello che volevo dire, compagni. Vi auguro a tutti buona fortuna e forza, perché sembra che ne avremo bisogno. Poi ci sono delle note, una la leggiamo perché è sull'ultimo testo, sull'ultima parte che abbiamo letto. Eleni Luca, praticamente una religiosa che interviene in dirette televisive con lezioni di fanatismo cristiano, qua è utilizzata come simbolo del ridicolo. Questo era per quanto riguarda il testo di Nikos. Ora ci ascoltiamo un brano dei Jenny Tortures e poi si passa all'ultima lettura per quanto riguarda Nessuno ci salva di Serge Spiasecki. Per oggi. Per oggi. Pavka si andò a lavare nella stanza accanto. Si sentiva sudicia dopo il contatto con quell'uomo e anche delusa e quasi offesa. A un certo punto udì la voce di Gregor che la chiamava. «Ehi, Pavka, che vuoi? Portami qualcosa da mangiare. Non c'è niente in casa, adesso mi alzo io a vedere. Non c'è nulla, ti ho detto, mangerai in negozio. Accidenti!» Una signora con tanto di pelliccia che non ha in casa niente da mettere sotto i denti. Ma dove tieni il denaro? Ma non è cosa che ti riguardi. Salta fuori piuttosto, è ora di andare ad aprire il negozio. Facci tu. Io sto a letto ancora un po', ti raggiungerò più tardi. Neanche per sogno. Ci andremo insieme. Le chiavi di casa voglio tenermele io, capito? Su, spicciati, che è tardi. E in quel momento si udì una voce alla porta. Buongiorno! Era Jan, che si era alzato presto per poter trovare in casa Pavka prima che uscisse. La porta del laboratorio di Baran era socchiusa ed egli vide con stupore che un uomo giaceva nel letto del suo amico. Pavka si sentì avvampare, letteralmente in viso. Ah, sei tu, Jan! Scusa se trovi la casa in disordine, ma mi è capitato qui un parente ieri sera e ho dovuto ospitarlo per la notte e non sapevo dove andare a dormire. Non mi interessa, rispose asciutto Jan. Maruscia Lobova mi ha scritto di averti dato delle chiavi del suo appartamento e sono venuto solo per questo. Subito, subito, subito, chissà dove le ho messe. E Pavka si mise a correre qua e là per la casa. La comparsa di Jan le aveva messo addosso un tale orgasmo che non riusciva più a ricordare dove avesse ficcato quelle maledette chiavi. E finalmente le trovò e andò a consegnare a Jan, che frattanto era uscito in cortile per non doversi magari trovare a faccia con quell'uomo. Aveva capito a volo la situazione e gli spiaceva di dover constatare che Pavka tradiva il suo amico, sebbene solo a letto. E non era neppure la prima volta che lo faceva. Provava disgusto e risentimento verso di lei, tanto più grandi in quanto il suo nuovo amante gli era sembrato antipatico oltre ogni dire. Nel consegnargli le chiavi, Pavka cercò di abbozzare il più amabile dei suoi sorrisi. Jan, ho un mucchio di cose da dirti, dobbiamo assolutamente vederci stasera. Ci sarei a casa? Se sapessi come sono felice che ti abbiano rimesso in libertà. Se hai bisogno di qualcosa, anzi, non fare complimenti, posso fare un salto in negozio e poi ritornare. Ho una ragazza che mi sostituisce. Non ho bisogno di niente. Voglio solo mettermi un po' in ordine e prendere il mio paltò, devo uscire subito. Beh, allora ci vedremo stasera, ho da parlarti di molte cose. Jan si avviò, senza rispondere, verso l'alloggio di Maruscia, seguito dallo sguardo corrucciato del comandante che proprio in quel momento usciva allacciandosi il cinturone. «È un altro tuo amante, eh?» chiese a Pavka mentre si avviava fuori nel cortile. «Ma neanche per sogno, è un amico di mio marito. Abita qui, nella casa accanto. Se dirà al mio uomo quello che hai visto, sono bella spacciata. Tutto per colpa tua è che mi sei entrato in casa con la forza. Senti, piantala di fare la bisbetica!» Stai incominciando a seccarmi, sai. Ah, che bel tipo mi è capitato fra i piedi, non c'è che dire. Affrettò il passo distaccando il comandante che continuò a seguirla. Si sentiva addosso una sorta irritazione. In che guai si era andata a cacciarsi per colpa di quell'imbecille. Jan si sarebbe affrettato ad avvertire Oleg non appena questi fosse uscito di prigione. E seppure non avesse, non avrebbe trovato il modo di farglielo sapere prima. E in negozio infatti giunse un'ora più tardi del solito. La commessa stava aspettandolo solo alla porta. Poco dopo arrivò Gregor e Pavka dovette servirgli la colazione benché sapesse che non avrebbe pagato. Infatti, quando ebbe finito di mangiare i panini e di sorbire il tè, egli si alzò, si avvicinò al banco, prese due pacchetti di sigarette e se li mise in tasca. Pavka lo guardava con due occhi truci. «A proposito, prestami 500 rubli», disse Gregor con indifferenza. «Te li restituirò appena mi daranno lo stipendio. Non ho un centesimo e oggi, per colpa tua, non ho ancora incassato nulla». «Beh, e allora aspetterò che ti sia rifornita una sommetta simile. Fai presto a tirarla su». Tornò al tavolino e accese una sigaretta con mani tremanti. Pavka tirò fuori da un armadietto 500 rubli degli incassi del giorno precedente e li scaraventò sul tavolino al quale sedeva Gregor. «Toh! Ma fila via di qui, subito!» Gregor adottò per l'occasione lo stesso sguardo di triglia che fino a due giorni prima aveva tanto affascinato Pavka. Raccolse le banconote e si alzò. «Ciao! Cocca bella, arrivederci! A presto!» «Non farti più vedere!» gli sibilò dietro Paulinka. La giornata fu sfortunata oltre ogni dire. Pochi clienti e per giunta uno più rognoso dell'altro. La servetta poi continuava a rompere qualcosa, un piattino, una tazza, un bicchiere, e Pavka era verde di bile. Appena vide spuntare la sorella con la sua solita faccia da morta di fame, la scacciò in malo modo senza neanche darle i soliti avanzi raccolti dai piatti dei clienti. «Fuori di qui, porca miseria! Non lavoro mica per mantenere i mendicanti, io ne ho piene le scatole di tutti!» Stascia tornò a casa piangente con la pancia vuota. Era il secondo giorno che non mangiava. Vedendola entrare a mani vuote, Tommaso Schurtitz, che era già mezzo ubriaco, non ci vide più e la pestò di santa ragione. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture,